se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. Voto, che cos'è? Io non lo so più. Stiamo facendo una legge elettorale che non capisce più nessuno assolutamente, ma neanche voi riuscite più a capire quando dovete mettere 8 croci su 5-6 cose che non capite. Vuol dire che c'è la base, c'è uno scollamento tra quello che abbiamo sempre pensato fino adesso e quello che pensano i nostri figli. Ora Beppe Grillo è un uomo che poteva godersi la sua vita, i suoi denari fatti lecitamente, invece si è dedicato alla politica, perché non è che uno che quando sembra parla... sentire quando si parla di Berlusconi, eh? Se poteva, aveva un'altra... No, con la differenza do una notizia, Grillo non si candiderà mai. Condivisibile avere una legge dove un cittadino vota ed ha un voto di preferenza. Voi siete degli abusivi, siete anticostituzionali, o di qua o di là, voi non contate niente. Alfano, che se la sta facendo sotto perché ha paura di trovarsi un lavoro, Alfano ha paura che dovrà trovarsi un lavoro. Appesi a capire che succederà al Movimento 5 Stelle, che diranno al Movimento 5 Stelle, perché Beppe Grillo così ondeggia, da una parte pare ci siano Di Maio e Di Battista che dicono vai avanti ovviamente e tutti annessi e connessi, dall'altra parte pare che ci siano Fico, il capo della rivolta interna, a dire ma no, non andiamo avanti su questa legge elettorale, il voto disgiunto, le preferenze, è sbagliato, diventiamo un partito come gli altri e ce la faranno pagare gli elettori. E setta Grillo... satanica. No, ma no, dai, no, presidente, caro Vincenzo, piano, ma che setta satanica, oh. Adesso va bene tutto. Tutto oscurato. Eccolo lì. No, e Beppe Grillo che fa? Beppe Grillo si affida al blog, si affida alla rete, si affida al Movimento 5 Stelle. Votate, votate, votate, rivotate. Insomma, ho capito nel bailam della legge elettorale che potrebbe saltare. Ecco, questo si è capito. Siamo nella 25esima settimana decisiva. Forse bisognerebbe fare come il consiglio di Di Battista. Il consiglio di Di Battista. Allora, Di Battista racconta Repubblica, Di Battista del Movimento 5 Stelle, che vista la situazione un po' complicata, adesso questo lo racconta in un retroscena Repubblica oggi, pare che abbia detto a tutti i suoi così quelli con cui formavo un capannello alla Camera del Movimento 5 Stelle, dice: quando vi chiedono della legge elettorale, voi rispondete così, intonate Despacito. Despacito, si potrebbe fare. Si potrebbe fare, cioè dici: ma tu sei per il voto disgiunto o per il caffè, per esempio, al mattino? Voto disgiunto o cappuccio? E tu intoni Despacito, passito, passito. E a lei. Ragazzi, così è per tirarsi fuori dall'impasse. Ma proporzionale o maggioritario? E non so, ma vuoi listini bloccati o le preferenze, circoscrizioni tante o poche? E tu li te ne esci così e te ne vai via con due passi alla Vacchi e via. Allora, signori, a San Giuliano Terme, Pisa, ci sono 13 gradi, ci fa sapere Roberta. Mentre a Brema, mi ricordo quando battemmo il Werder Brema, grande quarto di finale in Champions League e poi vittoria del Milan di Sacchi. A Brema ci sono 13 gradi, tutto grigio, e ancora saranno sotto per questa sconfitta con il Milan di Sacchi. Salutiamo Leo. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono 18 gradi. Mentre a Capri 20 gradi, mare come l'olio, Anita, grande. A Rimini 20 gradi e sole, a Modena 16 gradi. Eccola lì la nostra Chiara da Perth. Oggi 22 gradi in Australia, signori, a Perth. A Torretta di Legnago, Verona 20 gradi, mentre irrigo il tabacco. Grande Danilo. No, non ci credo, dai. A Sana'a, nello Yemen, ci sono 20 gradi. Matteo, il fattorino di Amman, è a Sana'a, nello Yemen, in questo momento, e ci sta ascoltando. Viva lo Yemen! Signori, mentre c'è qui Silvia Brasca del TG della 7, che salutiamo. Buongiorno, Silvietta. Buongiorno. Guarda che ti ho dato questa tattica fantastica in tutte le cene in cui si parla di listini e proporzionali con tuo marito che segue i talk show. Tu dici: ma tu vuoi proporzionale o che ne so, listini bloccati? Ti guarda e tu fai così. E vai a prendere un braulio in cucina e te ne vai via con Despacito. Vabbè, allora... c'è anche la nostra Aurora Lussana, signori! Despacito, le misure che ti parla dai fasito, alle più simpatiche con me cocorito. Quante mai condaccia tra sopra e questa è la versione molto poco portoricana, Aurora? È la versione orobica. Orobica. È grande il Vava, ma siamo a milioni e milioni di visualizzazioni. Chi è che canta? Sto tremando. Chi è che canta? È il Vava Sori, o il Vava in bergamasco, ma milioni e milioni di visualizzazioni. Fonsi sta tremando. Fonsi, che non è Fonsi, ma no. È Fonsi, quello che ha fatto il Despacito. Bello. Allora, signori, dai, apriamo il Parlamento qui, perché no, ragazzi, in realtà... se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così... No, al di là adesso di Despacito, qui, cara Silvia Brasca, c'è da fare un attimo di chiarezza. Sono sempre le 6:38, ricordiamocelo, per quello che sta succedendo a livello politico, perché li vedi anche tu ondeggiare, come no, avanti e indietro, non si capisce bene se fanno questo accordone o... Ieri è stata una giornata schizofrenica, a seguire sono arrivati, ci sono i franchi tiratori, il voto di lunedì di Grillo. Io non so cosa uscirà, di sicuro sarà qualcosa un po' zoppo, perché Conto era un fronte compatto, anche appunto che vinceva largo e facile, ma questa volta la via stretta, difficile, e quindi alla fine non la via sarà qualcosa. Mi dispiace per Fiano, perché ci sta mettendo l'anima, Fiano ci crede in modo... Ecco, ci crede il relatore, secondo me ci crede in modo serio e costruttivo, ma torno, altro che Despacito. No, è chiaro, la strada è stretta. Beppe Grillo ha riaperto il voto perché c'è un po' una fronda interna dei militanti. Io lo so, e in questo momento gente come... Vabbè, Berlusconi è lì che proprio se la gode, che se fa, se fa... Cioè è lì che proprio li vede, ha lanciato il sasso, ha rilanciato l'idea andiamo a votare, il sistema proporzionale, adesso si stanno scannando, lui sta tornando al centro un po' del dibattito mentre tutti gli altri si affannano così. E dalla Lega che dicono, cara Aurora? Cosa fate voi della Lega? Ma noi stiamo pasturando, non sei mai andato... A pescare sul lago di Como, quello c'è il momento di pescare gli agoni, cioè, ecco, si pastura un po', aspetti che abbocchino. Ma no, sì, no, perché la Brasca, perché è una giornalista seria, così parla di schizofrenia, ma l'è un rebelot, cioè, che è tradotto per chi ci ascolta da Bisceglie, di elevare il concetto, è un casino. Teatro dell'assurdo, diciamo così, si rifiuta un linguaggio logico conseguenziale. Ma no, ma sono lì, i grillini dovrebbero abboccare a breve, si sfasciano. Abboccare? Ma come si sfasciano? E si sfasciano perché c'è chi dice andiamo avanti, c'è chi dice aspetta che tanto si fa male da soli, no? Leggevo oggi. Te sei ancora certo che andiamo a votare in autunno? Ma no, ma io non sono, io vivo di non certezze, quindi figurati. Sappiamo di non sapere noi. Figurati, poi quando la vedo venduta così, sì, 5 giorni fa, sì, è certo, bravo, si vota il 24 settembre, è il momento sicuro, sì, in cui devi avere dei dubbi, devi iniziare ad avere dei dubbi. Guarda, io so solo una cosa, che qui a Cantù, a parte che noi votiamo domenica, ah, già, poi all'11, c'è già la legge elettorale per votare l'11 giugno, l'Edgardo Arosio a Cantù. L'Edgardo Arosio, ecco, io so solo una cosa, che qua a Cantù c'è la Madonna di Fatima. Sì? A Cantù? Sì, stanno ospitando l'esposizione nei luoghi della tradizione mariana di Cantù, sì, quindi che vadano a votare la Madonna di Fatima piuttosto, ma che a ottobre la vedo dura. Vabbè, no. A ottobre non si vota, quindi Silvia Brasca, no, adesso al di là di tutto... A ottobre si vota Aurora, il 22. Ma questo è un assist che neanche il 22, signori, c'è il voto farlocco, c'è il voto farlocco, il 22 si vota in Lombardia per decidere l'autonomia. Voglio avvisare tutti gli amici di Forlimpopoli, tutti gli amici di Andria, dal 23 potrete venire in Lombardia, non vi verrà chiesto il passaporto, state tranquilli, state sereni, non succederà nulla. Maroni e Zaia, no, che ci governano. Succede qualcosa, che il PD troverà un altro tema per darsene di santa ragione da sinistra su quel voto, si dividerà ancora. Sei d'accordo, Silvia, come dice Aurora, che chi rischia di più in questo momento politicamente è davvero il Movimento 5 Stelle, perché devono da una parte capire se fare una sorta di accordo e quindi apparire come un partito, questo dicono gli ortodossi del Movimento, no? E questo mettono in dubbio, dice non possiamo trasformarci come loro, cioè come tutti gli altri. E però è una prova di maturità, forse, per chi dice invece no, va fatto all'interno del Movimento. Sì, guarda, andranno, non so se ci sarà, cambiano le cose tutti i giorni, appunto questo voto di lunedì, qualche manciata di migliaia lo voterà seguendo Grillo, e secondo me grandi effetti sulle percentuali di 5 Stelle non ci sono. Mi sbaglierò, ma sono scettica su divisioni, su possibili allontanamenti. Si ricompatteranno tutti, dai. Si ricompatteranno. Sì, ma si ricompatteranno come? Vabbè, insomma, già lo scetticismo di... Ragazzi, ma qua non sappiamo cosa succede ancora, non è che è rimandato a lunedì. No, ma infatti, ma non sappiamo, la verità è questa, non sappiamo, cara Aurora, non sappiamo. Io poi devo saperlo, perché io sono direttamente interessata, volevo capire anche la circoscrizione qual è. Perché sai che tengo un buon censimento del 1991, anziché l'ultimo censimento del francese. E che ti frega? Cioè devi sapere se devi votare a Cantù oppure se devi votare per il marito qua, certo, per il Molteni, ma si ricandida, si ricandida il Molteni, allora, sì. Secondo me è pur di stare lontano da te, andare a Roma, partiti, quindi deciderà il Salvini. il Salvini. Il Salvini. Secondo me preferisce star giù con la Boldrini che sopportarmi me, che sono qui che sto sistemando ancora, sto arieggiando il prato e... piuttosto che stare qua con me. Cioè, capisci, cara Silvia, il marito, il Molteni, che forse si fa ricandidare da il Salvini, preferisce stare con la Boldrini piuttosto che con la Aurora. Cioè, piuttosto che per un leghista, sì, voglio dire. Preferisce la Boldrini alla moglie, titolo. No? Quello me lo di sicuro, qualunque marito. No, comunque no, adesso anche il re... allora hai ragione sui 5 Stelle, lì è lo sbando, però anche cioè, adesso Salvini, vabbè, fa bene, è in campagna elettorale Salvini, permanente, una vita che vuol votare. Inattaccabile. Cos'è? Il problema è Renzi. Hai visto il post che ha fatto su Instagram ieri? Basta la bellezza della città di Firenze per abbandonare ogni sentimento di rabbia. Cioè, è pieno di rabbia quel ragazzo, niente, se la prende anche con quei 5 Stelle, ma i traditori ce ne sono anche fra i suoi. Sì, perché gli erano traditori. Sì. Qualche francotiratore c'è, poi qualcuno, sì, qualcuno, diciamo, come si dice, padre nobile, non so, Prodi, Rutelli. Ma Franco Marini, poi. Napolitano, cioè, tutti che gli dicono, ma dov'è? Calenda ancora ieri, ministro dello sviluppo economico, ha ribadito votare a settembre, in autunno, è sbagliato. Però lì è Prodi che pesa, secondo me, cioè quella cosa è quello più... Signori, noi stiamo parlando di tutto questo, ma la vera cifra, e poi ripartiamo dopo il traffico, che ho trovato sui giornali, è quest'altra. Di questo bisognerebbe fare grandi dibattiti. Ci sono 12 milioni e 200 mila italiani, 12 milioni e 200 mila italiani che... non si curano perché non hanno i soldi, non si curano, rinunciano a curarsi, rinunciano perché non hanno la possibilità economica per farlo. Ecco, allora, qua c'è, cioè, giustamente i giornali si cervellano sulla legge elettorale, ce la faremo, voteremo, non voteremo, e poi uno legge 12 in un trafiletto, in alcuni casi, mezza pagina, 12 milioni di italiani e 200 mila che non hanno i soldi per curarsi. Ecco, meditate, dopo il traffico. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Incazzato! Adesso ci si mette pure Prodi, che oggi su Rai 3 ha detto che le abitazioni di lusso non pagano l'IMU. D'Alema e Prodi, lo volete capire che le case di lusso a 1, a 8, a 9 pagano IMU e TASI, anche se abitazioni principali? Ma voi evidentemente di imposte e tasse siete ignoranti, ed io vi tolgo il titolo di presidente, anche quello di presidente di condominio. Non votate per partiti che si rifanno al pensiero catto comunista, sono loro che ci riempiono di africani. Gli inglesi non hanno l'apologia di reato, non hanno gli strumenti giuridici. Loro vivono di speaker corner, cioè finché uno non fa una cosa può dire anche le peggio cose del mondo. Il nodo alla questione resta lo sbarramento al 5%, una soglia che penalizza i partiti come Alternativa Popolare, per esempio. Sì. Alternativa Popolare, il partito di Alfano. A proposito, ah sì, è vero, ne avete parlato. Notizia di questa settimana, mamma mia, avrete letto su tutti i giornali, ci sono stati momenti di panico durante un comizio di Alfano, un cretino ha urlato attentato. Per fortuna non è successo nulla, perché tutti i presenti stanno bene, sia il cretino che Alfano. Vabbè ragazzi, adesso toccherà difendere Alfano tra un po', perché sembra proprio, come dire, no Aurora, sembra... Voglio le quote Alfano. Le quote Alfano. Anche che persone come Alfano siano rappresentate in politica. Se superano il 5%, certo. Sì, sì, no, no, giusto. No? Serve Alfano. Serve Alfano. Ai leghisti. Alfanoidi. Ai leghisti piace molto Alfano. Molto Alfanoidi. Guarda che non ti ho chiesto niente riguardo del terrorismo. Vuoi dire qualche perla nostra? Vado a nostra... pregare alla Madonna di Fatima. Ecco, va bene. Ma cosa vuoi che dica? Cosa vuoi che dica? Adesso accolgono anche i profughi climatici, hai visto? Cosa vuoi fare? I profughi ormai sono gli italiani che, come giustamente dicevi, non c'hanno più i soldi per curare. Senti Silvia, senti un po'. Vai avanti, dai. Vai, dai, dai, dai, vai, Aurora. Vai, vai, Aurora, vai, vai. Hai ancora 30 secondi. Se vai dalla Madonna di Fatima, se vai dalla Madonna di Fatima, ascoltala però. Brava, che bello. Ma vedi, la Madonna è caritatevole, non direbbe queste cose così dure nei confronti degli altri esseri umani, no? Ma io leggo anche la Bibbia, bisogna mettere le siepi perché sennò diventa deserto, ricordiamoci, perché sennò fanno razzia. Bisogna anche proteggere ciò che amiamo, la nostra cristianità, il nostro occidente. Mm. Ormai va di moda così, no? Nasconditi e scappa, scappa e nasconditi. Hai visto quelli lì a Notre Dame? È la resa dell'Occidente. La resa. Tutti con le mani alzate, tutti. Mamma mia, che sofferenza. Che tristezza. Ma è la collaborazione con la polizia. C'è un attentato e si fa così per collaborare con la polizia. Mica è arrestateci tutti. Questo siamo diventati. Ma torneranno le Termopili. Torneranno le Termopili. Sì. Silvia Brasca, lo sai, torneranno le Termopili. Resteremo in 300, ma le difenderemo. Ah, sì. Difenderemo anche te, Milan. Grazie, anche la Brasca. Sì. Barbarossa, tutti. Dovremo difenderci. No, signori, io spero che voi abbiate, come al solito, la paletta da 0 a 10. Per cosa? Per votare. Sì. Perché c'è un'esibizione canora... non indifferente, ecco. Oddio. No, non ti faccio cantare, Silvia. No, lo so, ma lo so dove vai. Dove vado a parare, secondo te? Dove vado a parare? No, c'è il buon Bersani. C'è il buon Bersani che a Radio Rock ha cantato Vasco, signori Bersani. Quindi oggi non c'è le metafore di Bersani, ma direttamente le canzoni di Bersani. Sentite un po'. La vita che va e non va. Che è? Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'aria e col sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio e l'amore in quattro parole. Dai. Io sono ancora qua. Vabbè, dai, sembra già. Cioè, poco rock. Allora, onorevole Bersani è ancora qua con MDP qua. Sembrava la fine del mondo andare via dal PD invece. Senti. Già, io sono ancora qua. Ricordo quando la tiro fuori Vasco queste cose e c'era Berlusconi in auge. Che depressione. Noi raccogliamo 10 milioni di firme e portiamo lì davanti al Parlamento. Oh mamma mia. E io dissi questo a Berlusconi. Ma che fa canto? Quando te sarai smontato, noi potremo dire, già, io sono ancora qua. Ma è stupendo, la prima dichiarazione politica cantata. Voto Silvia. Insomma, è un'ora pericolosamente tarda del pomeriggio, di le birrette, la foto della birra. Cosa vorresti dire? No. Vabbè, che voto gli diamo per l'intonazione? Stanislavski si è molto immedesimato. Infatti, il metodo Stanislavski. Dai, diamogli un 7. Tu, Aurora, che dici? Che dai, Vasco è sempre 10. No, ho detto a Bersani. Io lo so, ma è una bella interpretazione. È l'uomo autentico che emerge, una canzone autentica, come qua è bella. Un 7 e mezzo. È un uomo che resiste la sua resistenza umana, più che politica ormai. Bella. Dai, un sette e mezzo a Bersani. Sì, ti piace? Io amo molto il teatro, la musica in generale. Sì, ho capito, ma fa il politico Bersani. Comunque era molto teatrale, bravo. Ah, vabbè, sì, certo, sì. In questo caso sì. Salutiamo anche il nostro mitico amico Dejan Cetnikovic di Radio Rock, che ogni tanto va a spulciare i politici, li va a beccare. Allora, con loro saluto anche Aurora Lussana, che si prepara a difendere le Termopili. Cantù, le nuove Termopili, Cantù, lì in 300, lei è benedetta in prima fila con l'alabarda a difendere tutti noi. Aurora Lussana e Silvia Brasca del TG della 7, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Alin Mila, Eli e gestisci un lanciano di Yamia. 24 mattino.